Solo nella mia cucina ho un sentore di cacao. Sarà che si allontana l'altro giorno di cacao. Non ci riesco già da un giorno. Avrei questa faccia, non